si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, eccoci qua. Buongiorno a tutti ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, quando sono le 8:36. Buongiorno da Alessio Maurizi, oggi senza Carlo Gabardini che è in trasferta a Roma per la manifestazione dei diritti. Magari, chissà, più tardi lo sentiamo per chiedergli come è andata la manifestazione dei diritti la settimana dopo l'approvazione, almeno in uno dei programmi del Parlamento, delle unioni civili, di cui si è discusso per settimane e per mesi. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo naturalmente per commentare con noi le notizie di questa settimana e, laddove possibile, andremo a caccia di buone notizie. E poi cerchiamo un personaggio della settimana, cari ascoltatori, vi ingaggiamo anche oggi. Il catalogo e i biglietti della mostra di Matisse, scusate, a Torino sono a vostra disposizione, sono a un pelo da voi, dovete solo indovinare chi è il personaggio della settimana che abbiamo pensato per voi. Il primo indizio che vi vado a dare è questo, cari ascoltatori: il personaggio che ha una notizia che viene con lui, che è legata a lui in questa settimana, lui, lei, loro, essi, non importa, è che era molto atteso. 800 24 00 24, pensate a qualcuno che era molto atteso. Allora, i nostri contatti li sapete: la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Mi raccomando, anche se è domenica, attivate i vostri dispositivi e cominciate a interagire con noi. Cominciamo, vai! Non sono senz'altro buone notizie quelle che arrivano dalla Libia, o meglio, ieri sono rientrati il lungo ritorno degli ostaggi, lo scrivono tutti i giornali. Due italiani, due su quattro, che sono usciti vivi dall'inferno della Libia di oggi, due tecnici di un'azienda italiana che lavora in Libia. Gli altri due purtroppo sappiamo che fine hanno fatto, sono stati uccisi in uno regolamento di fuoco tra milizie in una Libia sabrata, in una Libia ormai da tempo fuori controllo, o meglio controllata da fazioni opposte. C'è un governo a Tripoli, ce n'è uno a Tobruk, ma la sensazione è che ci siano molte fazioni in campo, milizie una contro l'altra, perché quello che è successo ai quattro italiani dimostra proprio questo. A Sabrata, teoricamente, le milizie che controllavano il territorio agivano in nome del governo di Tripoli, ma quando si è trattato di, per esempio, riportare in Italia i due italiani, beh, ci sono state ore di incertezza, perché i miliziani hanno detto: prima dobbiamo interrogarli. Insomma, la sensazione è che sul campo la situazione sia veramente complessa, molto molto complessa. Le Nazioni Unite continuano a tentare di formare un governo di unità nazionale, ma in settimana c'è stata una bella intervista ad uno degli esponenti di questo ipotetico governo, un rappresentante del governo di Tripoli, intervista del Corriere, il quale diceva: il tentativo che sta facendo le Nazioni Unite è lodevole, ma mette in campo personalità che spesso vivono all'estero da anni, in Egitto, in altri paesi o addirittura in Occidente, non hanno nulla a che fare, non conoscono la Libia di oggi, e quindi capite quanto la diplomazia sia lontana dalla realtà. Speriamo che non si avvicini troppo alla realtà invece una ipotetica impresa militare che il governo italiano scongiura, dice che non ci sarà. In queste ultime ore ci sono state diverse smentite, ma insomma nelle settimane scorse è inutile far finta di nulla e negarlo, era stato lo stesso governo italiano, il premier Renzi, a dire: cerchiamo la guida di una operazione che ci sarà in Libia, siamo disposti a coordinare delle forze in Libia, eccetera eccetera. Per ora sappiamo solo che ci sono in azione degli uomini dei servizi segreti con licenza di sparare, così come ci sono quelli della Francia, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, ci sono anche quelli dell'Italia da qualche giorno, da quando almeno il governo ha firmato un decreto in questo senso. Sentiamo un paio di voci, così, tra le tante di questa settimana, stranamente in accordo tra di loro, ci sono due personaggi completamente diversi, come Berlusconi e il presidente della Camera Boldrini, che però su questa questione dicono tutte e due sostanzialmente la stessa cosa, cioè andiamoci cauti con l'intervento. Io spero che il nostro governo non commetta l'errore di intervenire, perché cancellerebbe in Libia, con i bombardamenti o facendo morti dei cittadini libici, tutto il grande lavoro di 10 anni che noi con il nostro governo abbiamo fatto per trasformare il giorno della vendetta, il 31 agosto, nel giorno dell'amicizia. Il rischio, diciamo che in Libia ci devono essere dei presupposti perché l'Italia possa svolgere un ruolo di normalizzazione e democratizzazione, quindi ci dovrà essere un governo di unità nazionale, un governo che chieda poi un intervento, quindi al momento diciamo che mancano i presupposti. You tell me hold your head up. Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on. Tell me how the hell can you talk? How can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just all talk. Con questa Lady Gaga, Till It Happens to You, una canzone dedicata alla violenza sulle donne, una canzone che Lady Gaga ha cantato alla notte degli Oscar, per introdurre questa notizia: corsi di formazione organizzati dalla comunità islamica per trasmettere ai fedeli nozioni sull'affettività e la parità tra i sessi, soprattutto, nozioni da inserire anche nei sermoni del venerdì all'interno delle moschee, in particolare della città di Milano. Una buona notizia, perché per una volta dall'incontro tra le culture, dall'arrivo dell'immigrazione in Italia che spaventa alcuni, pensiamo alla Lega, altri lo considerano l'immigrazione un fenomeno che non si può contrastare. Penso per esempio alla maggioranza, al PD, e a volte però dimenticandosi di gestirne le conseguenze in maniera adeguata, dall'incontro tra l'immigrazione e la nostra cultura forse viene fuori qualche cosa di positivo. Le donne immigrate di seconda generazione di cultura islamica, di religione islamica in Italia, desiderano emanciparsi in qualche modo. E allora abbiamo con noi Sumaya Abdel Kader, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sociologa e coordinatrice dell'area culturale delle comunità islamiche e musulmane in Italia, ho detto bene? Sono la coordinatrice del progetto Aisha, che è all'interno promosso dal CAIM, il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, Monza e Brianza. Ok, perfetto, scusa, avevo sbagliato la sigla. Allora, una buona notizia abbiamo detto, adesso cercheremo di entrare nel dettaglio, di capire come saranno questi corsi di formazione. Siete stati voi, donne, giovani donne in Italia, a lanciare questa iniziativa. La prima domanda è: c'è una questione femminile all'interno delle persone di religione musulmana, in particolare in Italia, nel senso che le donne musulmane vogliono emanciparsi, volete in qualche modo emanciparsi da che cosa? Lo sappiamo, insomma, da un ruolo spesso che viene imposto dalla figura paterna all'interno della famiglia, sullo studio, sul lavoro, sul matrimonio, su tante cose. Sì, innanzitutto questo impegno è promosso da giovani sia immigrate che giovani nate e cresciute in Italia, quindi italiane a tutti gli effetti. La volontà di lavorare su questo progetto nasce innanzitutto purtroppo dalla constatazione che ci sono molti casi di donne che sono vittime di violenza o di discriminazione all'interno dell'ambito familiare, ma non solo, nella comunità musulmana. E questo ci ha spinto a lavorare per creare appunto un progetto che andasse a lavorare su due fronti fondamentalmente. Sì. Sul fronte culturale, che è diffuso tra molti musulmani perché portano con sé retaggi culturali non legati alla religione ovviamente, ma retaggi culturali che mettono la donna in secondo piano, che la discriminano, che la svalorizza e così via. E questo è una grande sfida che ci siamo posti come obiettivo principale. Mm-hmm. Dopodiché l'altro fronte è quello pratico, quindi dare sia assistenza a chi è vittima di violenza, ma anche lavorare a una sensibilizzazione, ad una formazione per cambiare i processi culturali, per cambiare quelle che sono anche le mentalità e le abitudini di chi vive un rapporto. Allora, io dico, ricordo, Soumaya Abdelkader è una ragazza, è nata nel 1978 in Italia, figlia di immigrati giordano-palestinesi, dimmi tu se sbaglio qualche cosa, laureata in biologia ma anche in lingue e in sociologia, è una scrittrice e ricercatrice. Soumaya, io ti anticipo una domanda, poi facciamo una piccola pausa per il traffico, e la domanda è questa: in quali ambiti si sente di più questa pressione della figura maschile su quella femminile all'interno delle famiglie e delle comunità musulmane? La questione dello studio, del lavoro, la possibilità di uscire, di sposarsi liberamente, di scegliere il proprio partner, il fatto di indossare il velo, sono altrettante questioni che ti voglio chiedere. Recentemente abbiamo visto sul palco di The Voice, un reality, uno show della Rai nel quale ci si esibisce cantando, una ragazza di origini iraniane che diceva: io normalmente non posso esibirmi su un palco nel mio paese, non posso cantare a volto scoperto, perché semplicemente perché sono donna. Traffico. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Si Può Fare. Siamo in compagnia di Soumaya Abdelkader, una ragazza nata in Italia. Tu sei italiana praticamente al 100% a questo punto, no? Assolutamente. E insieme ad altre donne, ad altre ragazze, ad altre persone sta organizzando corsi di formazione all'interno della comunità islamica per insegnare, insomma, come possiamo sintetizzare, Soumaya, il rispetto nei confronti delle donne? Beh, innanzitutto riconoscergli pari dignità, libertà e opportunità. Perfetto. Direi che queste sono le tre parole chiave. Pari dignità, pari diritti. Allora, quali sono gli ambiti dove oggi per una ragazza, per una donna islamica in Italia, per esempio, è più difficile avere questa parità di diritti? Facciamo un esempio, non so, uscire il pomeriggio, un adolescente che vuole uscire il pomeriggio con gli amici, un maschio e una femmina, possono fare le stesse cose o ricevete impulsi diversi da parte dei genitori? Sì, allora innanzitutto è corretto dire che questo riguarda una minoranza delle famiglie e delle persone. Okay. Però laddove c'è il problema, diciamo che la cosa più diffusa sì è sicuramente il fare un distinguo tra un maschio e la femmina, quindi al maschio si permette qualcosa in più, alla femmina qualcosa in meno. Mm-hmm. Quindi... questo si differenzia molto in base al paese di origine dei genitori, perché sì, poi gli elementi culturali sono differenti da paese a paese, certo. Assolutamente sì, da paese a paese. Mm-hmm. E noi col nostro lavoro vogliamo, diciamo così, deculturalizzare la nostra comunità da quelli che sono i retaggi culturali del paese di origine e rilanciare quelli che sono invece gli elementi principali e base del messaggio anche dell'Islam, che prevede... Sì. Questa libertà. Senza voler generalizzare, Soumaya, perché so che quali sono i paesi dove è più semplice o è meno semplice per una donna avere parità di diritti? Beh, sicuramente è più difficile nei paesi tipo Pakistan, Bangladesh e alcuni paesi alcune città di alcuni paesi del Nord Africa o nell'Africa subsahariana, anche lì dipende perché c'è differenza tra la città, tra la periferia, tra il villaggio, eccetera. Mm-hmm. Tu hai potuto studiare, la tua famiglia non ti ha, credo, creato nessun problema, anzi, hai due o tre lauree addirittura, quindi sei proprio, cioè, ci hai dato dentro alla grande, insomma, anzi, sì, complimenti. Sì. Però studiare è una di quelle cose che spesso alle donne non è consentito in queste famiglie dove ci sono questi retaggi culturali pesanti? Beh, anche lì dipende dal paese d'origine, perché se andiamo a guardare il mondo arabo invece lo studio è molto, molto valorizzato e le ragazze sono veramente molto avanti con gli studi, molto più dei ragazzi. Quindi magari le difficoltà si incontrano più, che ne so, nell'ambito di poter ricoprire incarichi pubblici forse, o di potersi esibire in pubblico, avere ruoli che ti mettono, come per esempio è capitato a questa ragazza, sarà un caso estremo, ma insomma... che ha raccontato a The Voice of Italy che nel suo paese, in Iran, non poteva cantare, soprattutto a volto scoperto, perché sì, era donna. Come dicevo, dipende dal paese di origine, perché per esempio l'ultima vincitrice invece di The Voice nei paesi arabi è proprio una donna che porta anche il velo, e questo è stato un forte segnale culturale, di cambiamento culturale nei paesi. Quindi anche tante contraddizioni, ci sono tantissime contraddizioni. Molte articolazioni, quindi è davvero difficile schematizzare. O generalizzare poi è sbagliato, questo lo dico, certo, anche io. Spesso i giornali lo fanno per semplificare e va bene, però è un errore. Veniamo a questi corsi, sì. Saranno, quindi ci saranno delle lezioni, degli interventi, dei discorsi, sì, che verranno fatti durante le preghiere, durante i sermoni? Questo è importante, allora, in moschea. Sì. Il progetto è molto articolato, ci sono diverse attività. Una è quella di formare delle donne che siano di riferimento all'interno delle varie comunità o centri islamici, affinché siano preparate a gestire le emergenze, i casi di violenza, i problemi familiari, eccetera. Persone formate a mettere in atto le procedure migliori per superare i problemi. Dopodiché ci saranno corsi, seminari, eccetera, eccetera, per diverse fasce e categorie di persone, per i giovani, per le coppie che si stanno per sposare, per le coppie già sposate, eccetera, per principalmente parlare di educazione all'affettività, educazione alla sessualità, la parità di genere, eccetera, eccetera. E questo progetto, che è in partnership con l'Associazione Italiana Nazionale degli Imam e delle Guide Religiose, implementerà e spronerà anche nei sermoni del venerdì di parlare di questo tema e questo argomento, perché è il momento in cui più di tutti la comunità si raggruppa, c'è la presenza delle persone. Bene, Sumaya, noi dobbiamo chiudere perché c'è il giornale radio, è stato un piacere però parlare con te, grazie, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo e state facendo voi, grazie, donne della comunità islamica in Italia, una buona notizia, una bella iniziativa, torneremo sicuramente a parlarne, così anche magari solo per valutarne gli esiti, a volte si fanno degli annunci, poi bisogna andare a vedere cosa succede. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che era molto atteso, ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, il sabato dalle 7.30 fino alle 10, la domenica dalle 8.30 fino alle 10. Nella puntata della domenica ripercorriamo un po' le più importanti notizie della settimana e, dove è possibile, diamo anche, raccontiamo qualche buona notizia. Per esempio ce n'è una piccola che però mi ha colpito, che viene da Rimini, riguarda la scuola, riguarda una scuola elementare, riguarda il tema della disabilità. Sentite questa storia. Nelle scuole elementari e paritarie Sant'Onofrio, in provincia di Rimini, c'è un bambino sordo, che è sordomuto, che ha dovuto imparare ad utilizzare la lingua dei segni per potersi esprimere. Allora, in questa scuola, negli ultimi 2 anni, che cosa hanno fatto? Hanno portato avanti un progetto per cui tutti e 105 gli alunni di questa scuola hanno imparato tutti il linguaggio dei segni, per poter parlare con lui, anche se non sono suoi compagni di classe, per farlo sentire meno diverso, meno solo, meno abbandonato. È una di quelle storie nelle quali si capisce come le differenze, invece di subirle e di pagarne poi delle conseguenze, anche se è solo un alunno su tutti e 105, solo uno su tutti e 105, la differenza si cavalca, si aggredisce, si vive con leggerezza, direi quasi con felicità. Tutti i ragazzi, i bambini, stanno imparando qualche cosa di nuovo, magari che nella loro vita sarà forse inutile, come la lingua dei segni, solo per far sentire meno solo questo bambino che ha un grosso problema. Io la trovo una cosa straordinaria, bellissima. Tanto per fare un esempio, tra poco parleremo di come per la prima volta il baratto amministrativo viene applicato in una grandissima città italiana. Anziché pagare la multa o la TARSU che è rimasta indietro, si va a tagliare le rose nel giardino comunale. Per ora lo hanno fatto comuni piccoli, lo sta facendo un comune grandissimo, uno dei più grandi in Italia, e vi racconteremo come e perché. Sentiamo anche qualche ascoltatore che fin qua abbiamo trascurato, perché stiamo cercando pure un personaggio della settimana. Alice, che chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Alice. Sì, il personaggio era molto atteso. Sì, esatto, sì. L'indizio che ho detto era questo, era molto atteso. Chi era? Montalbano. Chi è? Straordinario Montalbano, che lunedì è tornato attraverso la interpretazione straordinaria di Zingaretti, i romanzi di Camilleri e la fiction Rai. E però non era lui il personaggio, Alice. Ci stava però, perché è stato un grande ritorno. Tra l'altro ha rifatto numeri di ascolto straordinari. Non sempre l'ascolto equivale alla qualità. Chi se ne frega, per una volta sì, coincide. Quindi siamo tutti felici. Grazie, Alice, anche per averci ricordato il ritorno di Montalbano. Adriana da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Io Prego. Ho pensato a Mauro Pellicori, il direttore della Reggia di Caserta, come personaggio della settimana. Perché? Perché la Reggia di Caserta, come molte altre cose, è disastratissima, e lui è riuscito in pochissimo tempo, lavorando tanto, addirittura a far infuriare, perché si lavora troppo, ma stanno arrivando moltissime persone, a un progetto per l'apertura continua, e comunque perché gli piaceva ricordare Mauro Pellicori. Ha fatto benissimo, Adriana, anche perché ieri pure noi lo abbiamo addirittura intervistato per pochi minuti. Sì, il giorno dopo, subito, questa questione della lettera scritta da alcuni sindacati. Tra l'altro lo correggo, perché ieri avevo detto in onda, sbagliando, che la lettera era stata firmata dall'UGL, dall'UIL e dalla CGL, invece la CGL non è tra i firmatari di questa lettera, l'ha firmata l'Unione Sindacale di Base insieme alla UIL e alla UGL. 3 sigle hanno firmato questa lettera, nella quale si, tra le varie cose, si diceva a Pellicori che si tratteneva troppo a lungo negli uffici, nei suoi uffici della Reggia, mettendo in qualche modo a rischio la sicurezza della struttura. Lui ieri ha detto: non è vero assolutamente, perché la Reggia è vigilata 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Forse qualcuno non digerisce i cambiamenti che io sto cercando di fare per migliorare l'efficienza della Reggia. Grazie ad Adriana per averci ricordato comunque questa notizia. Però non era lui, appunto, il personaggio a cui avevamo pensato. Filippo da Forlimpopoli, buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve. Avevo pensato a un tema più leggero. Io ho pensato a Tobia, il figlio di Nicky Vendola e del suo compagno, diciamo così. Tobia Antonio. Sì. che sicuramente sarà stato molto atteso da chi lo aspettava, cioè dai suoi genitori, che sono genitori a questo punto Nichi Vendola. Io non so bene poi, dal punto di vista biologico, chi dei due tra Nichi Vendola e il compagno sia il genitore biologico. Lei lo sa, Filippo? Ma io ho capito il suo compagno. Il suo compagno, giusto, è vero, sì sì sì. Era lui, Nichi Vendola, sarà solo, diciamo, un genitore, non possiamo neanche definirlo genitore adottivo, perché appunto in base alla legge che in Italia non c'è, non potrà esserlo, ma insomma la coppia Nichi Vendola e il suo compagno ha avuto questo figlio, Tobia Antoni, cui si è parlato tantissimo, ma è stato Nichi Vendola a volere in qualche modo rendere pubblica questa questione per aprire questa discussione, sicuramente, io credo, però non era lui il personaggio, non era lui. Anche se era molto atteso in effetti, e ci poteva stare, come no, ci poteva stare assolutamente. A questo punto, ascoltatori, che faccio? Vi do un altro indizio, perché voglio dirvi che questo personaggio che noi andiamo cercando questa settimana o si ama o si odia. O si ama o si odia. Pensateci, un personaggio che quindi divide, insomma, quindi aguzzate l'ingegno, chiamateci all'800 24 0024 e noi vi aspettiamo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Allora, notizia di questa settimana ancora è la questione delle candidature per le prossime elezioni amministrative nelle grandi città, Roma, ma anche Milano, Napoli, Bologna. E visto che oggi si votano le primarie a Roma e a Napoli, non entriamo nel merito di quella parte lì e di quelle città lì per non turbare gli animi di chi sta votando, e restiamo sull'altro fronte. Sentiamo un paio di voci, perché è davvero curiosa la situazione che si sta creando a Roma attorno alla candidatura di Bertolaso, il quale Bertolaso intanto è riuscito nuovamente ad inciampare, quasi che non voglia far dimenticare le proprie vicende giudiziarie. Lui è indagato proprio per la questione del terremoto. L'altra volta aveva detto Roma è una città terremotata, e tutti che, almeno qualcuno, memore appunto del processo che per ora c'è ancora, insomma, bisognerà pur che si dica una parola su questa questione qua, una parola della giustizia definitiva. E adesso ha detto io vado avanti con la mia candidatura, non mi fermo, vado avanti come una ruspa. Non riesce a non utilizzare queste espressioni, vabbè, che dobbiamo farci? D'altra parte è questa la situazione, una situazione nella quale Berlusconi, adesso sentiremo anche la sua voce, lancia ufficialmente la sua candidatura, ma è la candidatura di tutti, ma Salvini tutte le volte dice no, non la mia, non per quanto riguarda la Lega, che a Roma conterà pure quello che conta, ma nell'equilibrio nazionale del centrodestra un po' di più. Sentiamo le voci. Ognuno può fare le previsioni e fare i sondaggi che vuole. Come ho detto, la mia storia insegna che quando mi impegno in una vicenda, ancorché la più difficile, poi alla fine riesco a risolverla. Quindi se sto continuando e sto andando avanti come una ruspa, significa che sono convinto di riuscirci e riuscire anche a fare bene per questa città. Silvio, ma Guido. Candidato del centrodestra a Roma per le comunali, si chiama Guido Bertolaso? Ad oggi no, almeno non di tutto il centrodestra, non voglio autoimpormi o esaltarmi, però ad oggi non è il mio. Ripeto, la via maestra, quando non c'è una condivisione fra i partiti, è quello della scelta dei cittadini. Se si facesse avanti Giorgia Meloni, per me il problema non si porrebbe, il candidato sarebbe lei. L'amore in fondo non è poi che un baratto, te troviamo riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai, facciamo. E va bene, è incredibile come ci si esalti sempre molto sentendo Renato Zero in queste sue celeberrime interpretazioni. Il baratto, ve lo abbiamo anticipato. Diamo il buongiorno e la buona domenica a Francesca Balzani. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Vice sindaco di Milano, ma anche e soprattutto forse nella veste di assessore competente al tema del baratto amministrativo, assessore al bilancio Balzani. L'abbiamo vista, sentita recentemente per la questione delle primarie di Milano, che ha perso con Sala. Tra l'altro in settimana c'è stato anche un vertice, bisogna capire se farete o no la famosa lista arancione, ma questo è un tema, se vuole ne parliamo dopo. A noi interessa questa notizia perché voi siete il primo veramente grande comune, il secondo comune in Italia ad adottare questa misura del baratto amministrativo, cioè la possibilità di fare piccole opere, piccole prestazioni, tagliare le rose nel giardino comunale, accompagnare gli anziani se c'è bisogno a fare gli esami del sangue. Adesso io sto sparando, ma me lo dirà lei quali sono le cose vere, giuste, al posto di pagare la tassa arretrata che non si è riusciti a pagare o la violazione del codice della strada, cioè la multa. Quindi per una città grande come Milano una svolta importante, una norma prevista a livello nazionale. Balzani, intanto se ho detto qualche cosa sbagliata me lo dica. No, il cuore è quello che lei ha ricordato. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché i cittadini che senza colpa, parliamo infatti di morosità incolpevole, poi vedremo di cosa si tratta, non sono riusciti a pagare multe, tasse, oppure anche ad esempio l'affitto di una casa popolare di proprietà del comune o la retta scolastica, la mensa della scuola, l'asilo. Ecco, questi cittadini oggi, se vogliono, possono rottamare questi vecchi debiti facendo lavoretti. Lei ricordava alcuni ipotesi, pensiamo a pulire, tener pulito un pezzo di parco oppure tinteggiare la palestra di una scuola. Quindi lavoretti che più o meno sono alla portata di tutti noi. Senta, morosità incolpevole intanto, questo mi sembra un primo concetto importante da far capire. Che cosa vuol dire e come si definisce il caso di morosità incolpevole? Io non ho pagato, che ne so, una tassa comunale, la tassa sui rifiuti, sono incolpevole quando? Lei è incolpevole quando dimostra che un fatto della vita, per esempio aver perso il lavoro, essere finito in cassa integrazione, oppure pensiamo al piccolo artigiano o al commerciante, una malattia, un problema di impossibilità a svolgere normalmente l'attività della bottega o del negozio. Quindi io spiego che cosa mi è successo a me o alla mia famiglia e che mi ha impedito di pagare, perché altrimenti avrei pagato. Questo è importante perché naturalmente si tratta di una misura eccezionale, che ha una forte valenza sociale. Sì, quindi non si può concedere a tutti di venire a sostituire il pagamento delle tasse o delle multe con dei lavori socialmente utili, si concede solo a quelle persone che lo hanno, ci sono capitate in maniera incolpevole per le casistiche che ricordava lei. C'è un tetto massimo di debito che si può estinguere in questo modo? No, assolutamente no, in realtà il tetto è minimo, cioè abbiamo attenzione a quelle persone che hanno un debito di una certa consistenza. Abbiamo pensato di mettere un tetto minimo di 1.500 euro, però tetto massimo non c'è, e poi c'è una condizione che è quella di avere un ISEE non superiore a 21.000 euro. Date queste condizioni, i cittadini che vogliono, perché naturalmente è una proposta che fa il comune, possono aderire alle prime proposte che avranno a che fare con il verde, con la tinteggiatura di edifici pubblici, e così sperimentare questo nuovo modo poi alla fine anche di sentirsi utili, perché spesso vede avere dei debiti e non poterli pagare, quando soprattutto poi veramente non si è potuto fare il proprio dovere per ragioni totalmente incolpevoli, toglie molta serenità. Questo è un sistema che consente per chi vuole di risolvere un problema personale e familiare in maniera totalmente nuova e innovativa. E anche di recuperare quella serenità in una maniera non solo pratica, perché non si deve fare l'esborso, ma anche in una maniera come dire, partecipativa. Ci si sporca le mani nei pennelli della vernice con la quale si va a ritinteggiare la scuola pubblica, e probabilmente si fa uno sforzo che comunque ha una sua importanza, perché non sarà come tirar fuori i soldi, però bisogna svegliarsi la mattina, vestirsi con la tuta, andare a ridipingere la scuola, e quindi è un percorso che voi dite sul quale il comune scommette, un percorso anche di integrazione, possiamo definirlo. Ma guardi, ha detto una cosa giustissima, comunque mi sento utile per la mia comunità, mi sento utile per la collettività, e così veramente poi alla fine faccio qualcosa che è partecipazione alla vita della città, quindi un meccanismo che risolve un problema pratico ma che consente anche di ricostruire quel rapporto di fiducia che poi è il punto fondamentale anche in una grande città è pur sempre una comunità di persone, quindi il senso di appartenenza resta sempre un punto veramente molto importante. Ecco, adesso io però invece mi metto nei panni di chi magari ascoltando non dico che vuol pensare male, ma pensa forse, fa un passo in là e dice va bene, tutto bello, tutto buono, però siccome il problema dei debiti per i comuni italiani, per molti comuni italiani è un grosso problema, dei debiti, dei crediti non, che non rientrano, insomma, non dei debiti, mi scusi, dei crediti che non riscossi. Allora, quanto costa questo gioco, chiamiamolo così, ma in realtà non è un gioco, questa misura che ha tutto il significato che lei ci stava spiegando, al comune di Milano, per esempio? Avete fatto un conto? C'è un tetto di spesa massimo, un'entrata massima alla quale rinunciate definitivamente con questo sistema? No, è assolutamente il contrario. Questi sono crediti del comune che sarebbero tanto poi alla fine ragione di sofferenza per le famiglie con i quali si mettessero in discussione forzata, perché se uno non ha potuto pagare, ha perso il lavoro, è andato in cassa integrazione, ha avuto una malattia, mettergli in discussione forzata questi crediti probabilmente andrebbe soltanto a generare sofferenza e disagio. Invece così avremo la possibilità di avere un'aula imbiancata, un giardino pulito, quindi di migliorare un pezzo della città, un pezzo del parco. Non ci costerà nulla, perché in realtà l'unica fatica sarà quella naturalmente di organizzare le persone che si vorranno cimentare in questa esperienza, e poi stiamo anche cercando degli sponsor che vogliano metterci a disposizione i materiali necessari, pensiamo alla vernice, pennelli, tute, guanti, quindi stiamo cercando di costruirla veramente come un'operazione dove ciascuno può essere chiamato a fare la sua parte. E questa è la grande scommessa, ecco, anche per cercare di far capire che in realtà vede questi crediti nei confronti di persone che si sono trovate in difficoltà, sono crediti che cosa genererebbero? Solo ulteriore difficoltà, e invece così si trasformano in abbellimento, in cura della città. In cose che comunque il comune avrebbe dovuto spendere, perché se quella scuola andava ritinteggiata prima o poi sarebbe stato comunque un esborso. Facciamo, se possibile, un esempio per capire anche, perché poi il diavolo spesso sta nei dettagli, no? Quindi diceva Goethe, si ha ragione. Esatto, spiegata il senso generale di questa norma. Facciamo un esempio: io ho un debito di 400 euro, mettiamo, di Tarsu, un anno, due anni di Tarsu non pagata alle spalle, vengo in comune, mi propongo per fare questa cosa. E la proposta che posso ricevere di che tipo è? Un'ora, due ore, un pomeriggio, una settimana di lavoro? Lavoreremo al contrario, il comune farà dei bandi e dirà c'è da fare la tinteggiatura di queste scuole. Chi si propone come tinteggiatore per rottamare i suoi debiti? Ci sarà un valore lavoro ora che a seconda dei lavori, ma più o meno diciamo sono 10 euro, quindi noi metteremo a bando i lavori da fare. Adesso partirà un primo bando per 100.000 euro che ha proprio ad oggetto i lavori di tinteggiatura di edifici pubblici. Si farà il bando, lo si pubblicizzerà al massimo, sarà sul nostro sito, chi vuole scarica il modulo e dice ecco io ci sono, ho da pagare 1.000 euro di multa e 500 euro di spazzatura, non ho potuto pagare queste cose perché per esempio mio marito e io siamo finiti in cassa integrazione, voglio partecipare a questi lavori di tinteggiatura. Quindi il comune proporrà dei lotti di lavoretti, diciamo, e i cittadini potranno dire beh sì, me la sento di fare. Vanno a scalare questo debito. Esattamente. Ma ho capito bene, ho 10 euro, quindi se io ho 1.000 euro di debito, 10 euro l'ora, quindi se io ho 1.000 euro di debito dovrei impegnarmi per 100 ore, ho capito bene? Sì, esatto, esattamente così. Nel tempo, naturalmente, uno non è che li deve rottamare tutti la sera alla mattina. Non fate molti sconti, perché non sono poche, 100 ore, però non sono poche neanche 1.000 euro. Sì, certo, no, tenga presente che comunque bisogna anche considerare che è un'attività che impegna in qualche modo il comune, perché i nostri uffici, naturalmente, dovranno fare un attento lavoro di tutto raggio. Benissimo, questo è il baratto amministrativo, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete intervenire per commentare questa notizia, per dire la vostra, se vi siete siete persuasi, se vi piace nel modo nel quale il Comune di Milano, in ossequio, diciamo, a una legge nazionale, sta portando avanti questa iniziativa. Balzani, però, io una domanda gliela devo fare anche sull'altra vicenda, perché in settimana c'è stato un vertice, mezza Milano, quella del centro-sinistra, è col fiato sospeso. Vuol sapere se lei capeggerà o no questa lista arancione al fianco di Sala. Ma guardi, proprio giovedì scorso ho proposto una moratoria su questa discussione sulle liste, i ruoli, e ho proposto di concentrarci un po' invece sulle proposte, sulle idee, sui programmi. Proprio lunedì sera, cioè domani sera, avremo un grande incontro al Puccini per parlare di questo, soprattutto per raccontare le cose che sono state fatte in questi 5 anni. Quindi l'ho proposta io la moratoria sulla discussione delle liste, non sarò certo io a violarla. Ho capito, però io provo a forzare la sua richiesta di moratoria. Le faccio un'altra domanda: l'ipotesi di una candidatura alla sinistra di Sala, per esempio di una personalità come Gerardo Colombo, come la vedrebbe? Ma guardi, una candidatura a sinistra di Sala non sarebbe una novità, perché c'è tutto un mondo, sono forze politiche che non hanno partecipato alle primarie e che naturalmente hanno sempre detto noi avevamo il nostro candidato, quindi sicuramente non è una novità. Non so poi quale sarà il candidato che in qualche modo risponderà a questa proposta. Nei giorni scorsi circolava anche il nome di Maltese, staremo a vedere. Sicuramente, come ho sempre detto, tutte le candidature sono tutte naturalmente temibili, da prendere in seria considerazione. Era circolato anche il nome di Pippo Civati, quindi direi che il centro-sinistra, che si è riconosciuto nel percorso delle primarie, deve concentrare con grande attenzione tutte le sue energie soprattutto sulle proposte e sui programmi che proporrà, perché credo che questi poi alla fine siano ciò su cui gli elettori misurano la differenza, e quindi che devono essere al cuore, al centro della campagna elettorale. Chiudo e la lascio veramente, ma non sarebbe un autogol per il centrosinistra milanese, che ha governato Milano per 4 anni, a presentarsi con candidature divise e quindi rischiare di sperdere voti? Ma guardi, come dicevo prima, però non è una novità, questo è un tema che parte da quando si è iniziato il percorso delle primarie. Alcune forze politiche fin dall'inizio, quindi parliamo dell'anno scorso, hanno detto che non avrebbero partecipato alle primarie, che quindi avrebbero avuto un loro candidato. Quindi questo rientra un po' nella dinamica a volte di certe situazioni, che però le ripeto, non è un colpo di scena. Fin dall'anno scorso si sapeva che alcune forze non avrebbero condiviso le primarie, quindi si sarebbero naturalmente poi organizzate intorno a una candidatura diversa, quindi è qualcosa che si è messo in conto fin dall'anno scorso a Milano. Va bene, grazie Balzani, buona domenica. Grazie, buona domenica, speriamo che il baratto piaccia, che tanti cittadini si offrano con noi di sperimentare questa nuova cosa. Al momento non avete ancora numeri, vero, sull'adesione al baratto? No, infatti presto. È proprio una grande sperimentazione, perché sono assolutamente, non dicono nulla, bisogna incrociare troppe cose, situazioni personali. Come si fa a sapere chi ha un debito superiore ai 1500, che per esempio ha avuto una malattia, ha dovuto tenere chiusa la bottega? Poi non sappiamo neanche quali sono l'interesse che susciterà di più un lavoro sul verde, la tinteggiatura. Questo è proprio un primo bando completamente sperimentale per vedere e misurare la risposta. Ma sono molto fiduciosa, perché Milano è una città molto curiosa, che risponde sempre bene alle novità, diciamo la verità. E perché ho misurato che tanto interesse da parte di altre città, che da quando è iniziata a circolare questa notizia ci hanno veramente chiesto come la stiamo facendo, come la gestiremo, insomma ci stanno guardando per capire poi come fare tesoro della nostra esperienza e come replicarla. Va bene, grazie. Grazie, buona domenica a tutti. E bocca al lupo soprattutto ai milanesi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci fermiamo per una breve pausa, torniamo subito. Eccoci qua, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Adesso sentiamo i vostri interventi, vi ricordo che andiamo anche cercando un personaggio di questa settimana. Marcella dalla provincia di Pescara, buongiorno. Buongiorno. Ciao Marcella. Io ho avuto occasione di sentire un solo indizio, sì? Che poi è quello che mi ha ispirato, sì? Sì. Istintivamente, che poi è, non so se ce ne sono altri in corso oppure... No, siamo l'ultimo indizio che avevo dato è o si ama o si odia questo personaggio. E quindi io così istintivamente avevo pensato a Donald Trump, anche se non è l'unico che lo si ama. No, beh, certo, non è l'unico, però sicuramente il candidato alle primarie repubblicane in, certo, America è un candidato che o lo ami molto oppure è stato molto criticato, addirittura dal Papa lo puoi anche odiare. E c'è notizia, perché sempre in prima pagina al momento la questione primarie americane, Marcella, sì, però non era lui il personaggio, eh? Vabbè, ho pensato, grazie, ci stava però, eh? Poteva essere un bellissimo trappolone. Andiamo con Marina, che chiama da Cuneo. Buongiorno Marina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io non ho pensato un personaggio, ma una notizia. Certo, sono le due cose, vanno di pari passo, personaggio e notizia. Qual è la notizia? Ecco, e la notizia è l'introduzione della moviola in campo. Che sicuramente era molto attesa. Molto attesa, poi la siamo, la si odia, perché penso ci sono che quelli dall'altra parte della mia squadra, sempre di Torino, non la possano poi vedere, perché loro hanno sempre il rigore all'ultimo momento. Ah, quindi lei è torinese, cioè torinista? No, io sono di Cuneo, però sono del Toro, via. Del Toro, dai, del Toro, via. È anti-juventino, ho capito subito, che hanno il rigore all'ultimo minuto. È questo il luogo comune, la Juve al rigore all'ultimo minuto. Vabbè, Marina... sai che quasi quasi il personaggio è più giusto quello che hai detto tu di quello che avevamo pensato noi rispetto agli indizi, però non era questo. Non era la moviola in campo. Ci stava, grazie, grazie buona Marina domenica. Ci stava, grazie, tutto in effetti, perché è vero, era atteso, e che anche lo ami o lo odi. Vabbè, aggiungiamo allora un indizio a questo personaggio, altrimenti non ci arriviamo. L'indizio che vado a darvi è questo: il nostro personaggio, questo è un indizio molto facile, purtroppo, ma è così, ha un sosia artificiale. Ragazzi, se non indovinate, io mi alzo e me ne vado, lascio la postazione per sempre. Ascoltatori, un'altra notizia di questa settimana, che è una buona notizia perché anche questa era molto attesa, è l'approvazione della legge che introduce il reato di omicidio stradale, cioè che modifica alcune norme del codice della strada, sostanzialmente inasprendo alcune pene per chi investe e uccide qualcuno alla guida della propria auto, essendo in condizioni alterate, soprattutto con aggravanti in questo caso, ma anche nel caso in cui ci si dia alla fuga. Io do il buongiorno e la buona domenica a Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Buongiorno Biserni. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Biserni è una persona che da vicino si occupa di questi temi della sicurezza stradale, da quando era un professionista in questo settore e da quando invece ha fondato questa associazione. È una mente, credo si possa dire, abbastanza lucida, che su questa questione ci può dare un punto di vista importante. Una legge che era molto attesa. Io però le voglio fare prima una domanda, diciamo così, preventiva, Biserni. Ma questa legge era attesa, sappiamo che ci sono stati molti pirati della strada impuniti, tante volte capita che di fronte al morto in mezzo alla strada il responsabile dell'incidente

se vuole la spiego, per esempio. Adesso un attimo, facciamo una piccola pausa perché devo dare niente, nemmeno a farla apposta, le informazioni sul traffico. Poi torniamo, continuiamo, Biserni, a commentare questa situazione. Si potrebbe parlare anche del fatto che ci vogliono, ce lo siamo detti milioni di volte, più controlli delle pattuglie sulle strade. Prima di arrivare all'omicidio, quell'autista lì andava fermato con un controllo e non doveva arrivare ad investire il piccolo Jonathan. Ci fermiamo per il traffico. Allora, cari ascoltatori, intanto per quanto riguarda il personaggio della settimana, abbiamo dato appena adesso un altro indizio. L'indizio è che questo personaggio, oltre a essere stato atteso per molto tempo e a dividere tra chi lo ama e chi lo odia, è un personaggio che è anche un sosia artificiale. Se non arriva lui, arriva quello artificiale. Insomma, non è difficile, pensateci un attimo, noi non sempre pensiamo a delle persone umane, anche quando diciamo il personaggio. Voglio essere molto generoso oggi. Adesso torno a meno allegro e più serio, perché stiamo parlando di un argomento terribilmente serio come il reato d'omicidio stradale. Con la legge appena approvata, Biserni, finora abbiamo detto cosa non andava sostanzialmente nell'ordinamento italiano e adesso mi dice invece questa legge se è un passo in avanti, se è un miglioramento dal suo punto di vista. Ripeto, una mente, credo si possa dire, ma capire anche da quello che ha appena detto, abbastanza lucida su questo argomento, perché è un argomento anche questo che divide. Ovviamente i familiari delle vittime degli incidenti hanno desiderio di giustizia, però poi chiaramente l'ordinamento deve trovare degli equilibri, dei punti di equilibrio su tutti i versanti. Com'è questa riforma, Biserni? Posso fare accenno a quello che lei ha detto prima dell'interruzione? Lei prima ha detto una cosa giustissima, cioè però qui se non ci sono poi controlli, verifiche su strada eccetera, non è che possiamo pensare di condannare tutti dopo che hanno ucciso, quindi servono le verifiche. Verissimo. Per esempio, pochi sanno, perché poi non vengono divulgate troppo queste notizie, ieri sera un camionista rumeno appena entrato in Italia, in Valle d'Aosta, è stato fermato dalla polizia stradale con un valore polemico superiore a 3 grammi litro. Cioè, come dire, una bomba umana che entrava nelle nostre autostrade è stata disinnescata dagli artificieri della polizia stradale. Ma di questi episodi ne accadono tantissimi, interventi di polizia, carabinieri su questo caso. Noi apprendiamo solo gli episodi successivi, quelli che purtroppo sono già simulati sul dramma. Quindi, per arrivare a quello che dice lei, sul fatto che ci vuole un giusto equilibrio, questo è anche vero. Quindi bisognerà analizzare talune situazioni. L'importante è che si sappia che sulla strada non può continuare ad esistere una sorta di immunità da chiare responsabilità penali e conseguenze penali. Insieme a queste ci sono quelle amministrative. Voglio ricordare che noi avevamo chiesto con l'associazione di Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni il cosiddetto ergastolo della patente. Non c'è l'ergastolo della patente, ma insieme alle sanzioni penali arriva poi anche la revoca della patente per 15 anni per chi uccide ubriaco drogato, che diventano 20 se recidivo, fino a 30 se pirata della strada. Ecco, quale sarà il giusto equilibrio? Vedremo se nell'applicazione di questa normativa si possono creare spazi, come devo dire, anche di revisione, di verifica, eccetera. Certo è che dopo 5 anni finalmente si è fatto il punto fermo, secondo il mio modo di vedere, con una legge che a mio parere è comunque rivoluzionaria, nel senso che finalmente ci dice che i reati della strada e la violenza stradale con l'omicidio stradale in testa non è un reato di serie B come è stato considerato fino ad oggi. Va bene, Giordano Biserni, noi ci dobbiamo fermare qua perché abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione. Grazie al presidente dell'ASAPS per essere stato con noi, per averci aiutato a capire come questa riforma delle pene nel caso dell'omicidio stradale possa essere salutata come una buona notizia oppure no. 800 24 00 24, sicuramente è una, almeno io credo, una buona notizia, perché sono d'accordo con Biserni quando dice che le pene minime che c'erano precedentemente e che venivano spesso sostanzialmente applicate dai magistrati per via forse della bravura degli avvocati che riuscivano a trovare tutta una serie di attenuanti, erano esageratamente basse. Ma naturalmente anche su questo le opinioni vi aspettiamo. 800 24 00 24, anche se non c'è moltissimo tempo, stiamo quasi chiudendo e dobbiamo pure indovinare un personaggio di questa settimana per dare via il catalogo e i biglietti della mostra di Matisse a Torino. Enrico da Gorgonzola, buongiorno. Buongiorno. Che mi dice Enrico? Io dico la neve. Come personaggio della settimana, perché? Perché c'è quella artificiale fino adesso, oggi è arrivata, questa settimana è arrivata quella vera. Sì. Pare un personaggio atteso, perché sicuramente si aspettava, ha nevicato poco quest'inverno. E o la ami o la odi, perché è ovvio, no? Lei la ama o la odia la neve? Ah, io la amo, io vado a sciare, per l'amor di Dio, va benissimo. Poi dipende dove uno si trova, se è in montagna la ama, se è in città un po' meno. Un po' meno. Bravo Enrico, ha indovinato. Era questo il personaggio della settimana, assolutamente atteso da un sacco di tempo, forse da tutto l'inverno, poi come succede sempre all'improvviso si è accumulata una quantità tale per questo periodo che rimanda al famoso record del 1986. Allora, della serie si può fare nel mondo, una notizia che ci ha colpito e arriva dalla Cina è questa: la Cina vieta l'architettura bizzarra, una legge che mette a freno la possibilità di fare costruzioni ardite e bislacche, cosa che in Cina evidentemente fino ad ora è andata piuttosto di moda. Noi abbiamo il piacere di commentare questa notizia con l'architetto Andrea Destro, che vive a Pechino. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Allora, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, Andrea. Andiamo subito al sodo. Questa legge? Questa viene, diciamo, dopo un episodio che è successo più o meno 2 anni fa, quando sì? Il presidente cinese Xi Jinping, durante una conferenza che riguardava più che altro argomenti di letteratura e di cultura in generale, fece un commento sul fatto che la Cina non avesse più bisogno di produrre architettura strana, usò un nomignolo un po' particolare. E poi ci fu una grande discussione nell'ambiente dell'architettura qua a Pechino, ma in generale in tutta la Cina, per capire cosa volesse dire l'architettura strana, e in questi 2 anni in un certo senso hanno sviluppato poi una legislazione a riguardo di questo. C'è da dire che come tutte le legislazioni qui in Cina sembrano molto rigide, poi in realtà sono Si dice, il diavolo sta nei dettagli, ma qualche caso di architettura strana, il caso più strano di architettura strana e bizzarra in Cina? Se ne è visto di tutti i colori. Per me, l'architettura strana è avere dei villaggi interi che praticamente sono delle copie rimpicciolite di Firenze che si trovano nella periferia di Tianjin. Chissà quante altre ce ne potrebbe raccontare. Purtroppo non abbiamo più il tempo, Andrea. Io intanto lo ringrazio per essere stato con noi, Andrea Destro, architetto toscano da Pechino, e ci risentiremo magari un'altra volta. Grazie a tutti, Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudio Schiattone, Carmelo Rocelle regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e a chi ci ascolta in podcast.